Innanzitutto buonasera a tutte, signore e signori. Ecco, siamo al secondo appuntamento settimanale di questa biblioteca che andrà avanti quest'anno fino a metà giugno. Insomma, così come si è prolungato l'anno scolastico, anche la nostra attività sta conoscendo un prolungamento. Questa biblioteca è in una sede provvisoria, lo dico ogni volta e ci tengo, anche perché noi aspettiamo con ansia la realizzazione del polo bibliotecario, dove avremo uno spazio sicuramente maggiore, più ampio, più visibile di quello che abbiamo ora. Ed è anche per questo che organizziamo settimanalmente e anche a volte due volte a settimana degli appuntamenti che possano favorire l'incontro tra lettore e autore e viceversa, ma anche aprire dei dibattiti, fare delle conferenze, stimolare eventualmente il desiderio di approfondimento, la lettura e quindi in sostanza conoscere questa struttura, i libri che vengono catalogati e offerti al pubblico. Quello che vedete qui è semplicemente una piccola parte del patrimonio che abbiamo in dotazione e catalogato, in quanto per motivi di spazio il resto, quasi tre quarti, sono in un magazzino qua dietro, per cui qualunque cosa servisse e fosse in nostro possesso ve lo procuriamo nel giro di mezz'ora. Abbiamo una pagina internet con un catalogo online, per cui anche da casa comodamente si può vedere quello che abbiamo, se c'è qualcosa che vi può essere utile e risultare interessante, quindi anche prenotarlo. La condizione essenziale è essere iscritti, per quello che ogni tanto lasciamo sulle sedie dei moduli di iscrizione, ci fa piacere iscrivere, ogni volta che possiamo iscrivere qualcuno in questa biblioteca e quindi far conoscere a sempre più persone il lavoro e le risorse che raccogliamo. Ringrazio chiaramente i nostri due ospiti, l'autore del libro Acqua Bianca, appunto Andrea Rossi, e Giovanni Accardo, che questa sera ci aiuterà a conoscere l'autore e il suo libro, e già in altre occasioni abbiamo avuto anche il piacere di avvalerci del suo aiuto e della sua collaborazione. Andrea Rossi lo conoscete, è un autore che in questi anni si è fatto conoscere, apprezzare, ha partecipato anche alla rassegna Autori da Scoprire, ma direi che la caratteristica anche che colpisce è il fatto di saper raccontare delle vite e il territorio con grande sensibilità, ma anche con grande ricerca storica, per cui questi suoi romanzi, questi suoi libri possono essere apprezzati dalle persone che vi abitano e che vivono questo territorio, ma nello stesso tempo possono essere anche un veicolo molto interessante per far conoscere la nostra realtà anche al di fuori. Questa duplicità, questa ubiquità, diciamo, della tua narrazione che è vincente e li rende molto interessanti. Questa volta siamo all'ambientazione a Lasa, ma non dico più, non dico altro, solo mi permetto, visto che c'era già sullo sfondo qualche immagine che correva. Quindi ringrazio ancora tutti quanti di essere venuti, i nostri ospiti, e concludo portandovi saluti dell'assessore Tomasini, che è anche il presidente della nostra biblioteca, invitandovi anche a partecipare alle prossime iniziative, anche di quelle avete una cartolina sulla sedia. Il prossimo appuntamento infatti sarà lunedì prossimo con un libro di storia locale. Grazie e grazie a voi, buona serata. Vabbè, mentre scorrono le immagini ci fermiamo perché sono rubano l'attenzione, se vabbè, mentre scorrono le immagini intanto possiamo cominciare. Un po' l'ha presentato Valeria, Andrea Rossi, responsabile della sede UPAD di Merano, appassionato scrittore, io lo conosco da un po' di anni perché è un assiduo frequentatore della scuola di scrittura creativa che abbiamo all'UPAD di Bolzano, e quindi conosco questa sua grande passione per la scrittura. Alcuni suoi testi sono racconti, sono stati pubblicati anche su alcune antologie. Da un suo testo, Sinigo, è stato tratto uno spettacolo teatrale con Andrea Castelli, è andato in scena 4 anni fa, 2008, 4 anni fa, perfetto, mi ricordo. 4 anni fa, e quindi continua Andrea con questa, questo, diciamo, racconto della terra in cui è cresciuto, ma dove non è nato. Perché esattamente come il protagonista di Acqua Bianca, lui arriva dalla pianura padana, da Cremona esattamente. Infatti il protagonista del romanzo Acqua Bianca è Daniele, un ragazzo di 12 anni che insieme al padre arriva dalla pianura padana in Val Venosta, e siamo nel 1946. La valle è percorsa da decine e decine di italiani che arrivano da diverse regioni d'Italia, e sono attratti sostanzialmente da due cose: le centrali idroelettriche e poi le cave di marmo di Lasa. Io farò una presentazione in forma di conversazione con Andrea, chiederò delle cose, ma farò anche delle letture in modo tale che quello di cui parlo si senta anche dalle parole del libro, e così anche spero vi venga la curiosità di acquistarlo. Il libro è stato pubblicato dalla casa editrice Alfabeta ed è appunto qui in vendita, ed è il volume che ha vinto l'ultima edizione del premio Alto Adige Autori da Scoprire, quindi un libro già premiato ancora prima di essere pubblicato. Questa è una cosa piuttosto insolita, diciamo, nel panorama dei premi letterari italiani. Comincerei proprio con la lettura di due pagine che ci danno un po' il quadro di questa situazione, dell'arrivo degli operai, di che operai si trattava appunto nei luoghi di cui poi Andrea magari ci dirà più in maniera più dettagliata. Allora, cominciamo da qua. In tutta la Venosta è stato sempre così, un andirivieni di squadre che si rincorrevano e tutte insieme rincorrevano pane e lavoro lì dove li trovavano, lì dove dicevano loro che c'erano. Forse è per questo che con noi, con quelli che sono nati qui, anche se italiani, tutti loro hanno legato poco. C'erano e ci sono ancora anche delle famiglie intere con dei figli. Sarebbe stato più facile fare amicizia con loro, mettere insieme qualche abitudine. Si sa, i bambini legano subito e si tirano appresso prima i fratelli più grandi, poi le madri, poi i padri, ma quelli venivano e andavano, parevano le nuvole in cielo. Come mi è piaciuta questa immagine di questo movimento, questa valle percorsa da italiani che arrivano da tutte le regioni d'Italia, e arrivano in una condizione che ricorda l'emigrazione italiana, ad esempio in Belgio. Quando gli italiani arrivarono in Belgio andarono ad alloggiare esattamente nelle baracche dei campi di concentramento, come avviene in questo romanzo. Sono venuto a prendere servizio qui in valle nel dicembre del 45, mi creda, sembrava ancora un campo di concentramento. Avevano costruito solo un edificio per gli uffici, il resto erano tutti ricoveri di legno. Gli operai erano tutti accampati lì e probabilmente si trattava già almeno di 500 persone. Io sono arrivato ai primi del mese, era una giornata cupa, lo ricordo perfettamente. Al vedere quelle baracche, quei dormitori, sono rimasto davvero molto impressionato, anche se poi ho avuto la fortuna di non passarci mai nemmeno una notte. Più di una volta poi ho sentito gli elettricisti, gli elettromeccanici, ma anche gli edili e i minatori che di fatica che spezza la schiena ne mangiano tanta a rispondere alle richieste dei signori. Quante ore avete fatto oggi? Quelli rispondevano 22 più un'ora per dormire e una per mangiare. Non dicevano 26 soltanto perché il giorno di ore non ne aveva così tante. E ne ho viste di imprese scambiarsi le squadre. Te ne mando una di calabresi, dicevano, e di loro ho sempre sentito parlare bene. Operai semplici, nessuna specializzazione, però bravi. Se tu me ne mandi in cambio una di abruzzesi, ottimi minatori questi. E tutti facevano e ancora oggi fanno un po' di tutto, per fare presto e per ingrassare lo stipendio. Io al posto del Fidenti mi ci sarei già perso, ma lui dirige il traffico con la sicurezza di chi conosce ogni centimetro di questo posto e ogni storia di quelle facce, e io glielo lascio fare. Per iniziare, la prima cosa che ti vorrei chiedere è come nasce, diciamo, l'idea germinale di questa storia, che come tu indichi nel fondo alla pagina, alla base tutta una serie di letture, ma come ti è venuta l'idea di raccontare intanto più che una storia, una valle dove si intrecciano, poi, come poi vedremo, numerose storie. Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Nasce da quello che diceva Giovanni prima, cioè dall'esperienza che ho avuto grazie a Sinigo e alla realizzazione poi dello spettacolo. Il dottor Stinfield, che è il presidente dell'associazione culturale di Lasa, ha visto lo spettacolo, gli è piaciuto questo tipo di racconto di una realtà particolare, attraverso la forma di un personaggio che la attraversa e che attraverso la sua vita racconta la vita degli altri e la storia degli altri e la storia di tutti, e mi ha chiesto se ero interessato a fare lo stesso tipo di lavoro sulla comunità italiana di Lasa. E gli ho detto che se c'era da fare ricerca storica non ero la persona giusta, perché non sono uno storico, non avrei neanche saputo da che parte cominciare. Se si trattava invece di raccontare, così come per fortuna poi sembra che sia successo attraverso questo libro, forse sì. E allora da lì è nata la scommessa. Ho avuto la fortuna di trovare del materiale già pronto dal punto di vista della ricerca. Ho speso comunque dai 6 agli 8 mesi per documentarmi, perché tutte le cose che sono scritte qui sono assolutamente reali, cioè fatti, alcuni personaggi no, magari sono un po', come dire, mescolati l'uno con l'altro, però tu hai fatto adesso il nome di Fidenti, qui ci sono i due figli, ed è un personaggio assolutamente reale che svolgeva esattamente quella funzione che ho trovato nei documenti che ho consultato. Quindi la documentazione è stata fondamentale sia in lingua italiana che in lingua tedesca, e per cui sono partito da lì, dal materiale che avevo, dai libri che nel frattempo che avevo letto. Forse uno di questi magari lo conoscete, perché è un testo di qualche anno fa, che all'epoca quando era uscito, infatti l'avevo comprato, perché forse era il primo tentativo di raccontare la storia locale attraverso un romanzo, che aveva comunque la forma del romanzo, andare in fondo, era degli anni, credo 80 se non 90, ma forse prima, e di una persona che appunto ha vissuto su e che... come al solito, Passaggio segreto di Silvano Neri, esatto. E all'epoca aveva avuto, come dire, un buon successo, proprio perché forse era la prima volta che uno scrittore, se possiamo definirlo così, perché era una persona molto semplice che ha raccontato la sua esperienza, della comunità italiana, cominciava a dire: il mio passato in questa terra è stato questo. Lì non c'è stato forse seguito per un po' di anni, e adesso forse sì, non dico solo legato a me, ma ci sono altre esperienze, quelle di Sandro Tuoni e tutto insomma. Ecco, più che un romanzo vero e proprio con un intreccio, uno scioglimento finale, a me è sembrato un libro che raccoglie un libro che raccoglie una serie di... Funziona? Devo usare il microfono. Questo non l'avevo capito. Sì, si sente meglio così, ok, va bene. E dicevo, più che un vero e proprio romanzo dove un intreccio segue la vicenda, una vicenda, qui abbiamo un personaggio, questo ragazzo Daniele, che fa da catalizzatore di tutta una serie di storie, e in queste storie si sente molto la testimonianza orale, per cui tu hai parlato di libri, volevo chiederti se invece hai anche raccolto testimonianze orali, sei andato a cercare protagonisti tuttora viventi. Allora, usiamo il microfono, forse meglio se ce lo scambiamo, vediamo se riesce a farlo uscire. Eccoci. Allora, sì, anche questo ovviamente, ho la fortuna di avere una moglie di Lasa, ecco. Non soltanto la fortuna di avere la moglie di Lasa, ma di avere quella moglie, ovviamente, e per cui i racconti della famiglia, racconti che sono legati al passato, che ci sono un po' di persone per le quali devo stare attento a quello che dico, perché quella storia lì l'hanno vissuta, e quindi ovviamente c'è una vita insomma dentro questa stanza, e che non è fatta di carta. E per cui sì, e poi dico, il libro di Silvano Neri è anche un altro libro molto particolare, questo è ancora più datato, era la testimonianza, anche qui con dati assolutamente reali, quindi una storia autobiografica assolutamente reale, della levatrice del paese di Lasa, che è stata nel periodo a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, quindi è arrivata su comandata dall'allora regime fascista, ha soppiantato la levatrice che era comunemente quella del paese, con tutto quello che significava questo arrivo, come tutti gli arrivi durante il periodo del ventennio, quindi con tutta la, come dire, la resistenza che il paese ha fatto rispetto all'arrivo di questa persona, ed è rimasta fino ai primi anni del dopoguerra, fino agli anni 50 più o meno. E lì ci sono ovviamente tutte una serie di episodi, di situazioni, di racconti, dei quali alcuni poi ho reinserito all'interno del libro, con, ovviamente con quello che in genere si fa, un po' di invenzione romanzata, insomma. Ecco, poiché dirigo una scuola di scrittura creativa, faccio una domanda che magari interessa solo me, ma te la faccio, ed è appunto chiederti quanta parte di finzione hai usato nel costruire una storia che comunque, anche senza conoscere nulla, chi legge sente forte l'elemento di testimonianza e fortissimi riferimenti storici concreti, per cui si sente che stiamo parlando di vite vere, di vite in carne e ossa. Poi magari le persone presenti, se dopo vogliono dire qualcosa, intervenire, penso che ci farebbe molto piacere. Ma secondo me frequento i suoi corsi di scrittura creativa, devo rispondere. Devo anche stare attento a come rispondo, è una fase di interrogazione. La mia preoccupazione principale era quella di, come dire, di rimanere assolutamente fedele, anche per l'input che mi era arrivato, cioè quello di raccontare la storia di una comunità. E quindi per farlo dovevo necessariamente rispettare come dire, dati storici, dati reali, raccontare di persone che avevano realmente vissuto, e mi sono fatto una, come dire, una specie di scaletta molto, molto precisa, con una serie di, con gli anni, e per ogni anno gli avvenimenti legati direttamente a, non so, alla fabbrica oppure alle centrali elettriche in costruzione, ma anche tutta una serie di aneddoti, di eventi, di piccole cose che in quell'anno erano successe. E ho seguito quello come traccia, perché il libro in qualche maniera ha uno sviluppo cronologico abbastanza semplice, tranne nel momento in cui Daniele, questo ragazzo, chiede informazioni sulla storia della fabbrica, cioè sulla storia della cava e quindi della Lasa Marmo, prima del suo arrivo. E c'è un personaggio che fa da, come dire, da escamotaggio perché questo racconto si possa realizzare. E quindi lì c'è un salto temporale indietro, si riprende a partire dagli anni 20 e si ritorna poi agli anni 40 e 50 in cui la storia accade e succede. E per cui ho seguito veramente fedelmente i fatti e le situazioni, trovando, inventandomi un modo per cui questi fatti e queste situazioni parlassero attraverso la voce di qualcuno, che poteva essere Daniele perché fa domande e quindi Daniele perché suscita le risposte di chi sa, e appunto attraverso i personaggi che sanno, alcuni di questi come dire, immaginati, diciamo un ingegnere della Montecatini che non credo che sia esistito, magari se c'era non ci assomiglia a quello che mi sono inventato io, che però dice cose che ovviamente hanno a che fare con la realtà dei fatti. Oppure, non so, c'è un incontro con un prete, e lì praticamente in un prete ne ho fusi tre, perché nel periodo che mi interessava raccontare, o che dovevo raccontare, di preti se ne erano susseguiti più di uno, ovviamente. E in quella figura li ho un po' raccolti tutti e tre, e ho fatto in modo che raccontasse cose che invece appartenevano a tre vite diverse. Questo ovviamente per sintetizzare, per non allungare, per anche trovare un escamotage più rapido e più veloce per il racconto. E più ci ho messo, come sempre credo si faccia, del mio, nel senso che Daniele viene dalla mia terra, uh-huh. E quindi ho usato i miei ricordi per raccontare la distanza anche in cui Daniele si trova, distanza emotiva, emozionale, immaginifica e anche concreta, reale, nel momento in cui viene preso da dove vive a 12 anni e portato in una valle, quindi dalla pianura alla montagna, cosa che è successa anche a me. Sì, infatti ci sono spesso proprio dei confronti sul paesaggio, ricordi della nebbia, la neve, e quindi un confronto tra due luoghi molto, molto diversi. Faccio un'altra lettura, così vediamo di entrare un po' più dentro queste vite, vite molto faticose, di grande sacrificio. Un'ombra sale su per il corridoio, la riconosco, è il guardiano, è lui che mi ha detto di buttarmi giù su questa branda, che tanto era libera. Lo riconosco perché ogni passo pare che inciampi, tanto zoppica. Se ci lavora lui, mi ha sussurrato papà, vedendolo venirci incontro andare alla baracca, allora un posto per me e per te, che siamo sani, vedrai, che ce lo trovo di sicuro. Mi ha messo una mano sulla testa e mi ha spinto avanti, leggero ma con fermezza. Saluta tu per prima e sorride, mi ha detto, poi lascia parlare me. Tu non smettere di guardarlo e di sorridere. Se questa notte la passiamo al coperto, dipende da lui. Se domani ci tengono qui, forse anche. È il padrone? No, meglio, è uno che conosce il padrone. Veniamo da Castelbello, dalla stazione, gli ha detto subito mio padre, senza nemmeno salutarlo, che intanto quello l'avevo già fatto io, sorridendo come meglio potevo e tirando su forte col naso per il freddo. La sala d'aspetto è strapiena come sempre, gli ha risposto lui, passando dal mio sguardo al suo. Stava piantato davanti a noi, ci sbarrava la strada, le mani sui fianchi e la faccia in avanti. La sua gamba malata era a pochi centimetri dai miei piedi. Io continuavo a sorridergli, ma non smettevo di guardare giù a quella scarpa più grossa dell'altra e a quella gamba fina che si intuiva ballare dentro la stoffa scura e grezza dei pantaloni. La sua orma sulla neve sembrava quella di un animale gigante, almeno 3 volte la mia, non ce n'erano altre così lì intorno. C'hanno tutti il loro posto e ce l'hanno assicurato per 5 giorni, mi hanno detto, per noi non c'era più neanche un angolo libero. Calabresi, eh? Parlava per domande, parlava sapendo già le risposte, ma mio papà gli andava dietro e gli diceva esattamente quello che lui voleva sentirsi dire. Mio papà in questo è bravo, capisce al volo in che modo trattare con gli sconosciuti, da loro proprio quello che vogliono per avere indietro un po' di quello di cui lui ha bisogno. Calabresi tanti, abruzzesi anche, mi hanno detto di venire qui che almeno un tetto l'avremmo trovato, mi hanno detto di cercare di voi, vi hanno detto di bussare alla porta dello zoppo, eh? No, no, non hanno mica detto così. Dal guardiano, mi hanno detto in paese, ci hanno parlato delle baracche, di quelle di legno dei belumatti, che un letto sopra o sotto, intanto l'avremmo trovato un po' di caldo anche, a noi ci basta per questa notte. Mio padre mi aveva tirato a lui e io ero finito davanti, la mia testa sul suo petto, le sue braccia abbandonate sul mio, continuavo a sorridere. È inutile che gli facciate fare la manfrina, sapete, mi ha indicato con un gesto della testa, mi basta che non siate terrone per darvi più facilmente un letto. E che non lo siete, l'ho capito naturalmente appena avete aperto bocca. Ci sarà tempo domani per farmi tutte le domande che vorrete su questo posto qui, se non le avete già fatte oggi in giro, e per farne io a voi. Avete una cera stanca, è meglio che vi buttiate giù. Nella baracca qui dietro, quella con la finestra mezza aperta, ci sono dei posti liberi, quelli degli operai che sono dentro in galleria a lavorare, quelli che fanno il turno. Prendetevi un letto libero e buttatevi giù. E il boccia, mettetelo vicino alla stufa, se potete. È inutile dire che leggendo queste pagine viene in mente l'Italia d'oggi che nasce da queste storie, un'Italia di gente che ha lasciato la propria terra per emigrare, ha vissuto la povertà, la fatica, il sacrificio, e che ogni tanto però si incattivisce con quelli che arrivano dal resto del mondo, ma lasciamo perdere questa sociologia spicciola e raccontiamo un po' di cosa stiamo parlando. Qui sono operai, o meglio emigranti, che arrivano per cercare lavoro intanto alla Montecatini. Esatto, allora arriva, detto così molto semplicemente, di tutto, arriva anche chi non sa che cosa l'aspetta, arriva anche chi non sa esattamente il lavoro che dovrà fare. Arrivano perché hanno fame, arrivano perché hanno bisogno di lavorare, arrivano perché c'è una chance e le chance o si prende al volo o scappano. E per cui arrivano sarti, arrivano ciabattini e devono finire in caverna, o se vogliono lavorare devono finire lì. Alcuni scappano dopo 2 giorni perché capiscono che la situazione è molto dura, perché l'ASA, un po' delle immagini l'avete viste, insomma, l'inverno è freddo, il lavoro è duro, era assolutamente duro, provate a immaginare di scavare la montagna con un compressore piantato sul petto e a spingere contro la roccia, almeno questo era quello che si descriveva nelle testimonianze, spingere contro la roccia con il compressore che continua a tremare sul corpo, insomma. Si invecchiava velocemente attraverso quel tipo di vita. E si dormiva nelle baracche, come avete sentito, si mangiava quello che c'era e quel poco che c'era, ci si lavava come si poteva, si respirava la polvere della roccia, quindi le malattie erano l'ordine del giorno. Quindi era una vita assolutamente faticosa e difficile. Si arrivava anche, questo Loretta, si arrivava anche vestiti male rispetto all'ambiente, perché si arrivava esattamente da tutta Italia, arrivavano i calabresi con la giacca, pensando che il clima fosse lo stesso e che bastasse una giacca per sopravvivere, quando in realtà insomma la temperatura andava sotto zero e non da poco, insomma. E si viveva con quella giacca lì e si faceva caldo con quello che c'era, insomma. Quello che mi colpiva, che mi ha sempre colpito nelle testimonianze di queste persone, è l'assoluta dignità con le quali attraversano quelle situazioni, con le quali fanno quelle scelte. Questo fatto, per esempio, all'inizio comincia il romanzo con questa piccola stazione di Castelbello, se avete fatto la Valle Nostra in treno, penso l'abbiate vista, insomma, poi è molto pubblicizzato, ormai è molto, anche carina da fare, bella da fare. E se vi capita di rifarlo, provate a dare un occhio alla stazione di Castelbello e alla sala d'aspetto della stazione di Castelbello. È una stanza tra per 5. Immaginare lì dentro 40-50 persone accalcate, messe per terra, ad aspettare che qualcuno lì apra una porta e dica tu e tu a lavorare, e se questo non succede per 3 giorni doversene ritornare a casa. Credo che questo tipo di, come dire, chiamiamole con un termine forse magari un po' alto, però io ce lo metterei volentieri, quello di epopea in qualche maniera. Questo tipo di epopea, di scelte, di vita fatte con un'accettazione che non è rassegnazione, perché non credo che fosse quello, dalle parole, dalle testimonianze, dai racconti che ho letto, non c'era quel tipo di spirito, insomma, di rassegnazione di fronte a un destino che è stato cattivo, però di fronte al quale non si riesce a reagire, non c'è la possibilità di fare nulla. Era la vita, era quello che ti toccava fare. Se ti toccava fare questo, facevi questo. Se ti toccava qualcos'altro, facevi qualcos'altro. Se c'era un'opportunità da scegliere, la prendevi. Se non c'era, non c'era. E questo, con l'accettazione più alta, credo, del senso della vita. E con la voglia di dare un significato a tutto quello che comunque ti toccava fare. Questo nel ragazzino e nel padre, forse ho messo un po' le due anime dell'emigrante, nel senso che il ragazzino ha una voglia di futuro che è molto più forte di quella del padre. Ha 12 anni, ha curiosità su tutto quello che gli succede intorno, fa domande, ascolta parecchio, è un po', come dire, è lui che consente a tutti di raccontare, perché continua a tirare la giacca a qualcuno e chiedergli ma scusa, questo lavoro perché lo devo fare così, o questa situazione, questa fabbrica, queste persone da dove vengono, perché, qual è il loro passato. Quindi è una persona che in qualche maniera vuole avere un po' di coscienza rispetto a quello che fa e al posto dove è, perché guarda avanti, perché guarda al futuro. Il padre ha l'altro aspetto, credo, dell'emigrazione, che è quello del guardarsi intorno con circospezione, con attenzione, sapendo di essere un ospite, sapendo di essere anche qualcuno che non ha stabilità lì dove è in quel momento e che quindi sta rischiando anche di tornarsene a casa. E quindi ha tutta una serie di attenzioni quando c'è l'ingegnere che invita il ragazzino, il padre, a pranzo la domenica. Il ragazzino dice subito di sì, andiamo, anche perché si mangia, quindi insomma si mangia molto meglio di quanto mangiassero loro in baracca. E il padre dice di no. Dici di no perché pensa chissà cosa penseranno gli altri operai. Questo è un atto di magnanimità che mi metterà in cattiva luce rispetto agli altri, quindi può essere che mi prendano come un raccomandato. Se mi prendono come un raccomandato, tutte le conseguenze a catena, e posso anche rischiare magari di essere mandato via dal capo reparto, dal capo squadra, che magari a un certo punto mi vede di malocchio. Quindi c'è un po' questa situazione qua, questo atteggiamento qua nei due. Uno tira, l'altro segue, e fisicamente o come primo atto il padre parte, perché ovviamente ha bisogno di quello, però è il figlio che tira il padre verso il futuro. Se posso ancora continuare una piccola cosa, io appunto scrivendo questa storia, ho avuto la fortuna di notare la differenza nei processi di immigrazione che sono accaduti in Alto Adige. Non so se possono essere i paradigmi dell'immigrazione italiana in Alto Adige dopo l'annessione dell'Alto Adige all'Italia, quindi a partire dagli anni 20 in poi, però sono esattamente l'uno all'opposto dell'altro. Tanto Sinigo è un'immigrazione radicata, ancora oggi Sinigo c'è, ancora oggi la fabbrica c'è, ancora oggi purtroppo in questo momento comunque in crisi, ancora oggi ci sono le persone che hanno vissuto quella storia e che vivono ancora lì, ancora oggi ci sono le case coloniche, ancora oggi c'è il centro di Sinigo che è identificabilissimo, anche se intorno hanno costruito l'edilizia popolare, le cooperative e tutto. E quindi è una immigrazione che ha avuto radicamento, che non se n'è andata, che non è sparita, che non è venuta col lavoro ed è sparita perché il lavoro non c'era più. Ha avuto la fortuna di avere una continuità nel lavoro grazie alla terra e grazie alla fabbrica, che ha consentito a quel nucleo di avere un futuro e di costruirselo in qualche maniera. Io ricordo quando eravamo ragazzi, insomma, a Merano si giocava per bande e c'era la banda dei sinighesi, erano identificati o identificabili per l'origine e per il luogo esattamente. E anche era una storia abbastanza autarchica quella di Sinigo, perché erano assolutamente autosufficienti, avevano terra per i prodotti, quindi per mangiare, per sopravvivere, la fabbrica garantiva l'assistenza sanitaria, il dopolavoro, c'era l'istruzione, cioè era un piccolo nucleo autarchico autosufficiente. La storia dell'immigrazione italiana in Val d'Aosta è invece assolutamente provvisoria, c'è finché c'è lavoro. C'è finché l'elettrificazione prosegue e cammina con l'elettrificazione. Se fate la Venosta ne trovate almeno 4-5 credo di centrali, a cominciare da Terni, proprio dall'imbocco della valle. E a costruire quella vengono chiamati operai, poi la prossima e poi la prossima ancora. Però sono squadre che camminano col progredire di questa elettrificazione e che piano piano poi se ne tornano via, finito il lavoro non ce n'è più. Se costruisco pannelli elettrici e il mio lavoro è quello, la squadra, spesso aveva detto Giovanni un pezzo prima, ci scambiavano le squadre, dammi la squadra dei milanesi che fanno bene quel lavoro, io ti do quella dei calabresi che ne fanno bene un altro. Ma poi finiva lì, finito il lavoro, sparivano, stavano 2 settimane, 3 settimane in un posto e poi se ne andavano, quindi non c'era radicamento in quello. E anche la storia della cava di Marlo, che invece è più lunga, più solida, più concreta. Comunque per l'immigrazione ha vissuto degli alti e dei bassi legati assolutamente al mercato del marmo. Se il mercato tirava, se gli investimenti c'erano, si chiamavano gli operai, e quegli operai erano molto spesso italiani, perché dal Carrara venivano le maestranze che sapevano esattamente come fare e come lavorare il marmo. Se il lavoro non c'era, se ne tornavano a casa, perché non c'era per esempio il radicamento, non c'era terra, nessuno di quelle persone aveva terra da coltivare. E quindi nel momento in cui non c'era lavoro non c'era altro e quindi se ne tornavano via, e anche le relazioni e i rapporti erano basati su questa precarietà, su questo senso di ci sono ma non so fino a quando, un po' come quelli che aspettavano la chiamata all'interno della stazione di Castelbello, per 3 giorni ci sono, poi non lo so. Ecco, hai parlato delle cave di marmo, allora leggiamo un pezzo. Siamo arrivati quasi a quota 500 e cresceremo ancora nei prossimi anni, questo è certo, se la commessa americana tiene, se ne arriveranno altre. La grande maggioranza viene dalle province italiane, immigrati insomma. L'unica figura, che poi di suo richiede una certa specializzazione, in cui i residenti sono la maggioranza, 99 a 37 se vuoi numeri precisi, è quella dell'operaio qualificato. Dipende dal fatto della maggiore durata del rapporto di lavoro del personale locale. Quando uno di loro veniva assunto alla Lasa Marmo, all'inizio naturalmente gli si affidavano mansioni generiche, ma siccome non se ne andava perché la sua storia, la sua casa e il suo futuro erano già qui in paese, ha avuto tutto il tempo necessario per raggiungere una certa specializzazione e quindi per ottenere alla fine il doveroso passaggio di qualifica. Per il resto, anche tra gli impiegati e il personale addetto alla sorveglianza e per finire anche tra noi dirigenti, siamo quasi tutti, se non esclusivamente, immigrati, come te. E sono rappresentate tutte le regioni d'Italia, anche se la maggioranza proviene dal Veneto, bellunesi soprattutto, e dalla Toscana, dalla provincia di Lucca e di Massa Carrara principalmente. Ovviamente non è un caso, lì alzano lo sguardo e vedono il profilo delle Apuane. Ma ci sono anche i Lombardi, così se vuoi ti basterà parlarci per non sentirti troppo lontano da casa, poi i Trentini e i Calabresi. È un passaparola rapido ed efficace. Se mettiamo il caso di quattro fratelli, quello con più coraggio, con più disperazione prende armi e bagagli, arriva fin quassù e trova impiego, appena si sistema, ecco che chiama sei altri e con loro arrivano le famiglie. E poi quello che avviene oggi con gli immigrati che arrivano dal Pakistan, dal Marocco, che però non lo possono fare perché hanno un altro colore della pelle, non mangiano il maiale, ecco, questa è una cosa che ogni tanto però dovremmo ricordare, l'hanno fatto gli italiani, l'hanno fatto, non so, non dico i miei nonni, anzi mio nonno era emigrato a Casablanca, penso un po', cioè la storia che gira, vabbè. E quindi c'è appunto ci sono le cave di marmo, ma c'è ancora, vorrei leggere un altro pezzetto, questo Daniele, che rappresenta anche una sorta di celebrazione del desiderio di conservare memoria, di raccontare e di capire, e costantemente tu gli fai dire qualcosa in tal senso, come questo per esempio: tutti noi ragazzini vi guardiamo vivere, voi grandi, e ci facciamo delle domande quando proprio non ci riesce di capirvi. Io qualche volta le faccio a voi, direttamente, se trovo il coraggio, e ho la confidenza, e qualche volta invece le tengo per me, ma non smetto di osservarvi. Mio padre dice spesso che oggi dobbiamo soltanto guardare avanti, e guardarsi indietro vuol dire farsi ancora del male, perché solo nostro Signore sa quanto abbiamo veramente sofferto tutti in questi ultimi anni. E mia mamma, quando a lui capita di ripetere questa frase, gli si avvicina, gli si mette di fianco, gli stringe forte la mano e annuisce. E per guardare avanti devo guardare loro due o lo zio Ferruccio che stravede per i motori, e infine guardare tutti voi grandi qui e cercare di fare quello che fate voi, se lo capisco. Non è la strada giusta per crescere questa, padre, quella per diventare finalmente uomini, come dite voi. Dice qualcosa di questo desiderio di, come dire, collegare il passato al presente, il bisogno di memoria? Questo tipo anche di manifestazioni attraverso le parole di Daniele sono abbastanza vicine a quello che sento. Sia nel senso che se posso immaginare il motivo per cui sono arrivato a scrivere, se posso definire il fatto che ho pubblicato un libro di essere uno scrittore, dipende moltissimo per me personalmente dal fatto di essere cresciuto, di essere stato un bambino molto timido e molto insicuro, e di aver spiato gli adulti per capire esattamente come ci si muove nel mondo, come si sta al mondo, come si diceva una volta, e per capire esattamente chi fossero queste persone che in qualche maniera, di fronte alle quali ero molto timoroso. Per cui questo è un atteggiamento molto personale che ho nei confronti degli altri, delle persone in genere, che ho mantenuto ancora un po', ovviamente poi si cresce, le cose un pochino di solito cambiano, insomma, o si matura, ecco, su questo. Però insomma, l'atteggiamento di fondo è esattamente quello lì. Trasportato questo nel racconto di una storia di una comunità, significa, almeno per me, esattamente fare questo tipo di operazione, e cioè di ricostruire il passato. È un po' difficile da spiegare perché le parole possono essere anche spesso fraintese. Uso una. Anche perché siamo in una terra abbastanza complicata rispetto a questo, dove chi racconta una storia o la storia di questa terra in qualche maniera rischia sempre di schierarsi, di dire da che parte sta, o sembra che bisogna esattamente schierarsi perché sennò non si può raccontare la storia. In realtà invece questa storia di questa comunità, come tutte credo, non è la verità di qualcuno contro la verità di qualcun altro, non è la storia all'italiana contro la storia alla tedesca. È la storia vista da un altro punto di vista, la storia di qualcuno che la guarda da un'altra parte. E così come quando guardiamo un quadro e c'è una giusta distanza per vederlo, per apprezzarlo, però se ci avviciniamo a 10 cm, a 5 cm, se andiamo a vederlo fino in fondo, troviamo le pennellate, se è un mosaico troviamo le tessere del mosaico, capiamo come è stato fatto, di quante pennellate è stato costruito quel quadro e di quante tasselli è stato fatto quel mosaico, così allo stesso modo si possono raccontare tutte le storie. Poi con il passo indietro, forse degli storici o forse comunque di chi ha una competenza anche diversa rispetto a quella mia del racconto, allora si può, come dire, mettersi alla giusta distanza rispetto al quadro. c'è una, nel libro ci sono spesso queste situazioni in cui si raccontano delle cose, c'è anche un momento, non so se magari tu poi l'avresti letto questo, non so, in cui c'è un personaggio che su questo tema mette un accento un po' particolare. Se voi andate all'ASA, ancora oggi c'è la lapide che ricorda l'uscita del paese. Raccontalo, sì. Ecco, che l'uscita del paese, proprio uscendo, entrandoci no, perché ha fatto la circolazione nuova, quindi si prende sulla destra, ma quando si esce dal paese per tornare a Merano, proprio allo sbocco della strada, della vecchia statale, sulla nuova, c'è una lapide che ricorda un eccidio, possiamo chiamarlo così, insomma, un evento veramente drammatico, l'uccisione da parte dei nazisti di alcuni abitanti di Lasa il 2 maggio del 45, quindi a guerra formalmente finita, quindi una rappresaglia. In italiano è scritto esattamente così, adesso se posso provare, ma sarà difficile che trovo il pezzo se non c'è, è scritto esattamente così, qui morirono più o meno, insomma, qui morirono per la patria e poi l'elenco dei nomi. Ah, ecco, perfetto. È scritto esattamente così, con tutto l'elenco dei nomi, e dice più sopra, dice qui il 2 maggio 1945 per la liberazione della patria caddero. In tedesco sotto è scritto hier gefallen am 5. Mai non si monta più stop, non si sa perché morirono, non si sa per chi morirono, non si sa, o non lo si dice, o non lo si può dire, o non si ha, perché questo in qualche maniera tocca delle sensibilità diverse, tocca delle storie diverse. Ci sono periodi di questa nostra terra sui quali mettere l'attenzione e raccontarli fino in fondo si rischia di far rinascere o di far rivivere delle situazioni di conflitto, di drammaticità, anche all'interno delle stesse due comunità. Se ancora oggi si parla di monumenti, se ancora oggi la sfilata degli alpini è un problema da collocare, sul quale ragionare, sul quale mettersi d'accordo e tutto, significa che rispetto al nostro passato, al nostro star qui, ci sono delle sensibilità diverse ancora. Non so se un'operazione come questa, spero, in questo senso me lo auguro, contribuisca a fare in modo che, così come noi possiamo leggere la storia vista dall'altra comunità, loro possano fare altrettanto, senza che il noi e loro significhi stare da una parte o dall'altra di uno spartiacque o di una barricata, ma soltanto perché l'abbiamo vissuta con occhi diversi, venendo da luoghi diversi e vivendola in modo diverso. Chi è migrante la vive in un modo, chi è residente la vive in un altro, ma questo non fa dei nemici assolutamente, solo perché si viene da posti che non sono lo stesso. E il marmo di Lasa piaceva agli americani. Leggo un altro pezzetto e poi ci racconti. Ma che ci fanno gli americani ancora qui? Chiedo io mentre comincio a scartare il cartoccio. Ci sono venuti e ci sono tornati, di Cerna, passando di qua con i carri armati, andando su e giù per la valle con le loro camionette, devono aver visto di sfuggita qualche bel pezzo di marmo candido che brillava qui, al deposito sotto il sole, tutto nuovo, della primavera del 45. Qualcuno degli alti in grado, qualcuno con l'occhio più attento, tornato a casa sua, se lo sarà poi ricordato quel marmo, e ora che hanno da commemorare tutti i loro caduti in Europa, hanno deciso di tornare qui all'ASA a prenderlo e di usarlo per farne tutte le croci dei loro cimiteri di guerra. E così hanno mandato qui un colonnello, un certo Quintardo, un nome così, il maggiore del cioccolato, e altri due o tre con qualche grado sospetto e qualche stelletta sul bavero, a stringere contatti e a sovrintendere lavori con il loro italiano stentato. Sì, era quello che dicevo prima, cioè la fortuna e la sfortuna della cava di marmo, attraverso tutte le proprietà che si sono succedute dagli anni 20 in poi, stranamente è molto legata ai destini americani. Noi lo diciamo, insomma, cioè, se andava o perlomeno i nostri migranti cercavano l'America, si diffuse, insomma, come volevi dire, no? Abbiamo cercato l'America, abbiamo trovato l'America, come dire, abbiamo trovato la fortuna. E quello che è successo all'ASA è stato di portare l'America all'ASA, di fare in modo che quella fortuna arrivasse esattamente attraverso gli americani proprio. E in due occasioni, una è quella degli anni 20, fine degli anni 20, in cui all'ASA si scommette sulla possibilità di far diventare quella cava e quel comprensorio di estrattivo il più grande d'Europa. Proprio perché, insomma, il marmo di l'ASA è un marmo pregiato, qui ho portato un cubo e lo potete vedere lì. È un marmo molto pregiato, molto puro. Non lo dico perché sono esperto di marmo, ma perché a forza di leggere poi le relazioni e tutto un po' di notizie me le sono incamerate, insomma. È un marmo puro, un marmo molto resistente, ma allo stesso tempo lo si può tagliare in lastre molto sottili. Quasi tutte le chiese in Germania e in Austria, bombardate o che perlomeno sono state danneggiate durante il bombardamento della Seconda Guerra Mondiale e che avevano visto distrutte le vetrate, per i primi anni, per i primi periodi dell'emergenza, le vetrate erano state sostituite con lastre di marmo di Vasa, perché era si poteva tagliare talmente sottile che lasciava filtrare la luce, quindi non era un muro rispetto all'esterno, ma era comunque una finestra, poteva essere rappresentata, vista come una finestra. Quindi aveva delle qualità assolutamente di gran pregio e quindi poteva avere una grande fortuna dal punto di vista commerciale. E fino all'inizio degli anni 20 ovviamente lo si estraeva con le tecniche, con i sistemi di allora, ma con, come dire, con una convinzione forse non così importante rispetto alle chance che poi invece si cercano di dare a questa cava. E Acqua Bianca, il titolo del libro è il nome della cava, esattamente, si chiama esattamente così, Acqua Bianca. E per cui si cercano investitori, si cercano capitali, si trovano in Germania, ma si trovano soprattutto in America. C'è una banca americana che è disponibile a finanziare molto, in maniera molto sostanziosa, questo sviluppo della cava di Vasa. A tal punto che i lavori cominciano. Quello che voi ancora oggi potete vedere, se andate a Vasa, forse magari nelle immagini finali si vede, non so se è già scorso prima, e quindi tutta la ferrovia, il piano inclinato, quindi questa cremaliera che sale su per la montagna, l'altro piano, l'altro chilometro di ferrovia a scartamento ridotto, quella che non so perché nessuno è riuscito a spiegarlo, si chiama Tenda Rossa, e che era la fine di questo percorso ferroviario e che era la parte opposta della valle della cava, dove venivano portate attraverso le funi e una gru, venivano portati i blocchi di marmo caricati su questo piccolo treno, portati alla piattaforma che scendeva e poi dentro il deposito. Tutta questa serie di macchinari che ancora oggi si rivedono datano proprio fine anni 20, quindi sono assolutamente di quell'epoca e per quell'epoca assolutamente all'avanguardia. E questa serie di investimenti hanno fatto la fortuna, perché hanno trovato ovviamente il modo di essere, come dire, concretizzati in questo investimento, in questa realizzazione, ma la crisi del 29 americana ha praticamente chiuso tutti i rubinetti e quindi ha fatto in modo che quello slancio iniziale si fermasse dopo poco. Con i soli capitali che venivano dalla Germania, quel tipo di impresa non si riusciva più a realizzare. E quindi ci si è barcamenati finché si è potuto. L'America ritorna nel primo dopoguerra, come nel pezzo che ha detto Giovanni adesso, e se avete avuto l'occasione di visitare i cimiteri americani, quello più famoso è quello di Omaha Beach in Normandia, quindi lo sbarco, tutte le croci che trovate sono fatte con il marmo di Vasa, sono state fatte a Vasa, e quindi è stato un investimento anche questo piuttosto grosso che ha consentito a molte persone di lavorare per un bel periodo, per un lungo periodo, con però come contraltare anche qui fortuna e dannazione, perché ovviamente questo tipo di commessa aveva esaurito completamente qualsiasi tipo di investimento e di, anche, come dire, di attenzione da parte della fabbrica. Tutto era concentrato sulla produzione di queste croci, a tal punto che tutto il resto del mercato era stato trascurato. Nel momento in cui questa commessa finisce, l'ASA si trova ad essere fuori dal mercato. Carrara in Italia e altre industrie estrattive in Europa intanto erano andate avanti, avevano trovato altri clienti, altri mercati, e l'ASA si trova assolutamente spiazzata. E questo è un altro degli up and down, che sembra l'immigrazione all'ASA sembra un ottovolante, quindi in termini numerici. Hai citato prima 500 persone, si arriva anche alle 600, alle 800, e nel giro di pochi mesi si torna a 50, perché non c'è più lavoro, non c'è più possibilità di sostentamento, e quindi tutti se ne tornano dove sono venuti. E quindi l'America ha rappresentato il bello e il brutto, il bene e il male, la fortuna e la disperazione in due periodi molto importanti per la cava. Oggi questa cava funziona, ha una sua attività anche fiorente, oggi ci sono i mercati arabi per esempio, che sono un ottimo mercato, Dubai e tutti gli Emirati Arabi, e tutte le grandi cattedrali che costruiscono in termini di palazzi e di hotel dentro spesso hanno il marmo di Vasa. chi sono le canolare? Allora, un'altra cosa bella e curiosa, cioè io mi sono divertito a scriverlo, cioè a scriverlo no, perché è un altro tipo di divertimento, ma mi sono divertito a leggere le documentazioni perché c'erano appunto anche questo tipo di informazioni, di aneddotica, insomma, in qualche maniera. E, allora, è un mondo, appunto, ancora una volta, al contrario di Sinigo, un mondo di questa comunità che non è autosufficiente, che non può vivere da sé, vive di un lavoro e vive di quello che il lavoro gli dà, e quindi non ha terra, non ha casa, e se ce l'ha ce l'avrà dopo un bel periodo di tempo, per cui intorno a questa comunità si creano, per i bisogni di questa comunità, una serie di altri lavori, di indotto si direbbe oggi, no? Di indotto di una fabbrica, l'indotto di un'impresa, di un'industria. Le canolare sono uno di questi indotti. Le canolare erano delle donne, delle ragazze che venivano dal Bellunese, dall'Alto Bellunese, anche a piedi, si facevano parecchi chilometri a piedi, vestite di nero, con una gerla sulle spalle, dentro questa gerla portavano tutto quello che, visto che l'emigrazione era anche molto maschile, ovviamente, perché il lavoro era maschile, si lavorava di fatica e quindi era un lavoro per uomini. E ovviamente questi uomini non si cucivano il bottone da soli, non c'era, insomma, sono negli anni 40, 50, quindi insomma gli uomini di quell'epoca. E quindi avevano bisogno di vestiti, avevano bisogno di riadattare i vestiti, di rivoltarsi la giacca perché era consumata la divisa. E le canolare facevano esattamente questo, partivano nella bella stagione, perché ovviamente venire da qui, dall'uno fino a qua, e arrampicarsi su per la cava significava attraversare la neve, quindi non era il periodo giusto, ma durante l'estate, il periodo primaverile o primo autunno, in cui appunto la condizione climatica lo consentivano, queste persone portavano il necessario per gli uomini, per la loro minima sopravvivenza, scarpe, vestiti, calze, biancheria intima, e quindi vendevano. Finché la giornata era finita, poi se ne tornavano alle loro case. Ecco, il libro, se non ho fatto male i calcoli, arriva verso la fine degli anni 60, in particolare tu racconti uno sciopero del 66, quando si comincia appunto ad avvertire una forte crisi, cominciano i primi grossi licenziamenti. Sì, quella è l'ultima parte, più là non sono andato perché poi, come dire, è l'ultima... L'ultima propagine di una presenza italiana, e visto che volevo raccontare, mi si è anche chiesto di raccontare quella storia, un po' la storia della comunità italiana in termini numerici importanti finisce lì, proprio perché ancora una volta il lavoro finisce e il lavoro non c'è più. E, è l'epoca della cava di marmo passa di diverse proprietà, a un certo punto diventa dello Stato, perché durante il periodo fascista viene ovviamente nazionalizzata, viene comprata dall'ente Tre Venezie, comprata con eufemismo perché ovviamente viene sequestrata dall'ente Tre Venezie, e quindi diventa proprietà dello Stato. Negli anni 50 alterne fortune, anche lì appunto finché c'è la commessa funziona, poi non c'è più, e quindi lo Stato comincia a ragionare sul fatto di avere un'industria che non produce, non dà reddito, non dà ricchezza, non dà lavoro. E in più c'è un risvolto abbastanza particolare e che ha anche qui, come dire, a che fare con questa terra. Ci sono degli articoli di giornale in cui come dire, si fa un investimento sulla cava di marmo di Lasa, si fa un investimento di, e siamo ancora in quella logica, si sta parlando di pacchetto, si sta parlando di autonomia, si sta parlando di quella svolta della nostra terra. E contarsi e dirsi quanti si è ai livelli alti della politica era importante. Sapere che a Lasa c'era una fabbrica che dava lavoro a 400-500 italiani era un modo per, come dire, mettere un tassello e mettere una cifra accanto ad altre da contrapporre a un'altra cifra dall'altra parte. Il passaggio di consegne tra l'ente Tre Venezie e la ditta Sonzogno, che è quella che vince l'appalto, viene gestito da un personaggio per il quale uno si chiede esattamente ma perché arrivare fino qua. È il segretario personale di Aldo Moro. Perché Aldo Moro dovrebbe interessarsi a un passaggio di proprietà tra una cava sperduta in una valle e una ditta che ha vinto un appalto? In realtà invece è così, dietro c'è la politica che in qualche maniera controlla, in qualche maniera indirizza, in qualche maniera spinge in certe direzioni, o perlomeno fa in modo che qualcosa possa succedere in certi momenti e non in altri. Ci sono alcuni titoli di giornali che sono abbastanza chiari rispetto a questo, senza nessuna, non ci si nasconde, insomma, non si fa le cose in segreto. C'è da mantenere un presidio, fondamentalmente, c'è da dire che gli italiani ci sono qua, sono arrivati fino qua, e quindi questa terra ancora una volta va difesa, va... E il problema grosso è che Sonzogno sì, arriva e anche qui porta all'inizio una ventata di assoluta modernità anche nella lavorazione del marmo, introduce dei sistemi nuovi e quindi questo migliora la lavorazione, ci sono meno sprechi, la ditta produce meglio, produce di più. Però l'investimento, anche questo, che finisce abbastanza presto, perché Sonzogno o ha fatto il passo più lungo della gamba, senza saperlo, oppure magari lo sapeva e l'ha fatto lo stesso. Sonzogno viene da, era il proprietario di un'altra cava vicino a Trieste, e quindi aveva, come dire, un certo prestigio nell'ambito dell'estrazione, nel campo estrattivo del marmo, insomma. Per cui quando vince la gara d'appalto ci si sente in buone mani. In realtà passano pochi anni e Sonzogno non paga più, o paga sempre meno. E ci sono le famiglie che hanno i conti dai negozianti aperti, che non riescono a saldare perché lo stipendio non c'è, non arriva. Ci sono le donne che vanno davanti alla fabbrica a sventolare questi libretti, a dirgli: io come faccio a pagare il pane per me e per i miei figli se non mi dai lo stipendio? E ci sono gli scioperi, e ci sono, e lì ci sono fotografie con alcuni personaggi. Scacchetti, la Merano è un nome abbastanza conosciuto, sindacalista della CGIL, e c'è una foto in cui c'è lui in una manifestazione. E quindi io finisco la storia con Daniele, che è diventato grande, che è cresciuto, che si è sposato, che ha fatto la sua storia di uomo, e che una notte del 66, dell'estate del 66, un'estate appunto difficile perché la fabbrica non pagava, non ce la fa a starsene a casa con la moglie seduto a rimuginare su queste cose, e esce di casa e va a sdraiarsi su uno di questi cubi di marmo, di questi sassi di marmo, a cercare il fresco non soltanto nel corpo ma anche nella testa. E non è l'unico, perché ne viene raggiunto da un suo compagno di lavoro, e insieme cominciano a ragionare su quello che è stato il passato più recente, le difficoltà che stanno vivendo, e a immaginarsi un futuro che non sanno bene quale potrà essere. Se la storia continuasse, probabilmente Daniele sarebbe uno di quelli che se ne torna a casa, perché poi appunto la fabbrica ha tagliato drasticamente le maestranze, ha ridotto drasticamente il lavoro, e nonostante gli aiuti che sono venuti anche dalla provincia, anche dalla regione, finanziamenti regionali, tutto questo non è servito a fare in modo che la vita decente di 500-600 persone potesse essere garantita. E oggi di chi è la proprietà del... Oggi, come qualche volta succede, se non ho capito male, i cicli poi si chiudono. Uno dei primissimi proprietari era la famiglia Lechner di Lasa. Oggi, il proprietario di oggi, anche se il capitale ha dentro alcuni azionisti svizzeri, sembra di aver capito, austriaci, adesso non ricordo benissimo, potrei dire una stupidaggine, comunque si chiamano ancora Lechner di Lasa, e quindi è tornata nelle mani da quella partita. Non so se ci sono domande o anche testimonianze dal pubblico. Prego, signora. La comunità tedesca, intanto che c'erano appunto tutte queste attività in mano agli operai italiani nella maestranza, appunto immigrate, cosa facevano intanto le famiglie locali, gli autoctoni? Non sono informato. Guardavano fondamentalmente. Adesso l'ho messa in maniera molto brutta, nel senso molto, molto greco. No, una delle cose di cui si stupiscono, per esempio, anche qui ci sono delle lettere e dei documenti, gli stessi, lo dico anche in una pagina del libro, gli stessi, non gli operai ovviamente, perché questa consapevolezza, queste domande non se le facevano, ma i livelli più alti delle maestranze, quindi ingegneri, geometri e tutto, era chiedersi come mai la popolazione di lingua tedesca non fosse venuta in mente che quelle 500 persone lì erano la risorsa. Non si apre un negozio in più, non si fa uno sbaccio di alimentari, non ci si inventa nulla, ma provate a immaginare una buona centinaia di persone a 2000 metri di altezza dentro le barche, hanno bisogno di tutto fondamentalmente, quindi di mangiare, di coprirsi, di sopravvivere alle temperature, quindi, immaginatevi l'inverno, quindi il lavoro era 24 ore su 24, 365 giorni su 365. E chi andava su a portare da mangiare, chi gestiva tutto il famoso indotto di cui parlavo prima, erano comunque italiani. Alcune case, alcuni italiani aprivano all'interno delle case delle mense, usavano alcune stanze della propria abitazione per ospitare gli operai che venivano a mensa. Quando è stato aperto il dopo lavoro è stato gestito da italiani, questo era, come dire, più immaginabile, perché il dopo lavoro era una delle espressioni del regime, per cui era ovvio che dovesse essere gestito da persone di fiducia, insomma. Ma è stata, io ho fatto una, mi sono costruito questa immagine, sempre rispetto a Silvio, immaginando l'immigrazione come un'ondata, e anche oggi qualche volta lo si dice, lo si usa come termine, no? Come un'onda di persone che arrivano. L'onda di Sinigo è un'onda che è arrivata su una spiaggia e quindi è entrata dentro e si è mescolata con la terra, e se si scava l'acqua la si trova, cioè c'è, esiste, è lì. L'onda che è arrivata in Val Venosto, perlomeno nella storia di Lasa, è un'onda che si è abbattuta su uno scoglio. Finché è arrivata, finché c'era, c'era l'acqua, finché c'era lavoro, c'era quest'onda. Quando non c'era lavoro, l'onda se n'è andata, e l'onda su uno scoglio non impregna, non lascia qualche chiazza, ogni tanto ci può trovare le conchiglie, il granchietto, però se ne va, la roccia è impermeabile all'onda, la sabbia no. L'avventura di chi ha avuto l'avventura, scusate il gioco di parole, di vivere quell'immigrazione è stata come un'onda che si è abbattuta su uno scoglio, e c'era questo stupore negli italiani. Di dire, per esempio, tutto il problema legato alla lingua, non ci capiscono e non ci capiamo, non riusciamo a imparare il tedesco, anche perché magari siamo qui due settimane e poi ce ne andiamo, quindi che senso ha che io impari una lingua quando poi non la userò più, quindi un atteggiamento anche di distanza già in partenza, ma dall'altra altrettanto, con tutto poi quello che il fascismo aveva lasciato. C'è un episodio di questo emblematico sui rapporti e sulla storia complicata di questa nostra terra. Pasqua del 1938, entrano dall'Esia turisti germanici, come oggi, fondamentalmente, con i pullman. La strada una volta passava per Lasa e quindi passano all'interno del paese. Un gruppo di ragazzi su tirolesi si mette lungo la strada, in piazza, e ogni pullman che passa saluta col saluto nazista. Scappano sui talloni e salutano col saluto nazista. Questo ovviamente non passa inosservato, arrivano alcuni ragazzi italiani, capi famiglia soprattutto, battibecco, dal battibecco si passa alle spintonate, qualche sberla, qualche ceffone, ragazzi tornano, su tirolesi tornano a casa, ovviamente raccontano in famiglia, e dalle case escono i padri su tirolesi con i forconi, con le falci e con tutto quello che si può usare. Le famiglie italiane, cioè gli italiani, scappano, si chiudono tutti all'interno del dopolavoro, fanno in tempo ad avvisare la polizia, il comando di polizia del paese di Lasa, il comando di polizia del paese di Lasa avvisa immediatamente la polizia di Silandro, di Milano, per cui parte tutta una spedizione, a un poliziotto scappa un colpo, fortunatamente finisce per aria e si incastra nel soffitto, entra in una finestra e si incastra nel soffitto inglese di un appartamento, quindi per fortuna non ci scappa il morto, però comunque le persone, gli abitanti del paese circondano il dopolavoro e sono costretti ad arrivare polizia, carabinieri, esercito a togliere l'assedio, e la Pasqua del giorno, questo è il sabato santo, la domenica, il giorno dopo, il paese è deserto. Perché ovviamente nessuno ha come dire, il coraggio di scendere neanche per strada e neanche di andare a messa, o se ci va di nascosto e svicolando lungo, le strade. E tutte queste cose lasciano uno strascico nel dopoguerra, oppure un altro episodio in particolare di un maso vicino a Lasa, in una delle frazioni di Lasa di Oris, un maso di montagna in cui subito dopo la guerra succede un fattaccio, nel senso che il figlio più grande di questa famiglia di contadini, tornando a casa, portando le bestie a casa, entra e trova la famiglia trucidata, padre, madre e altri due fratelli sterminati, uccisi a colpi di fucile. La prima reazione della popolazione sudtirolese è: questo è un omicidio italiano, e quindi caccia all'italiano, detto anche qui in maniera molto dura e volgare. Fortuna ha voluto che la polizia nel giro di 24-48 ore ha trovato il responsabile di questa strage, ed era un knecht, un servo, uno sbandato dell'esercito germanico che aveva disertato e che per trovare rifugio aveva trovato sistemazione in questo maso, e in cambio del vitto dell'alloggio lavorava lì, aspettando che le condizioni, insomma, fossero quelle ottimali per ritornarsene a casa. E quindi era uno che parlava un'altra lingua rispetto a quella italiana, e questo ha, come dire, sedato la situazione. Non erano già pronti ancora una volta a impiccare qualcuno, ma diffuso parole che ho trovato nelle testimonianze. Sono termini grossi, sono termini violenti, sono termini che fanno tremare, però sono i termini dentro i quali quelle persone hanno vissuto, o sono situazioni dentro le quali hanno vissuto. Dopo questa strage del 2 maggio del 45 non è stato facile. Il 2 maggio del 46, ho letto, c'è stato ovviamente il primo anniversario di quell'eccidio, c'è stata la commemorazione, c'è stata la messa, c'è stata la processione che è arrivata fino alla lapide. A parte che la lapide è stata distrutta più volte, e quindi si è dovuto ricostruirla più volte, e anche questo qualcosa dice. Il 2 maggio del 46 c'erano i due scampati, perché due persone, secondo me, ricordo male, sono scampate a quella fucilazione, uno perché era svenuto e creduto morto e quindi non è stato colpito dalla raffica, e un altro perché era riuscito a saltare giù dal camion prima che venissero portati davanti al fosso, ed era riuscito nella notte a perdere le tracce. E il 2 maggio del 1946 non c'è una persona di lingua tedesca a quella commemorazione, e quello che ho letto, nessuno degli italiani se ne è stupito in qualche maniera, nessuno ha recriminato su questo fatto, nessuno ha detto: ma perché non ci sono? Ma tu guarda che peccato. Lo si dava un po' per scontato, è la nostra storia, fa parte della nostra storia. Quello che a noi fa piangere forse loro fa ridere, quello che a loro fa piangere loro fa ridere, quello che per loro è una commemorazione di una vittoria, per noi è una commemorazione di una sconfitta. Questo gioco è un gioco ovviamente molto pericoloso, è molto brutto, crea distanza, crea tragedie qualche volta, però è qualcosa che ha attraversato la storia, credo, della nostra terra. Ma perché dal punto di vista storico quella non è stata un'immigrazione, quella è stata una guerra di conquista senza usare le armi, e è stata una colonizzazione della terra di altri, quindi gli autoctoni non potevano accettare di essere stati colonizzati. Questo ragionamento esatto, e quando poi gli autoctoni non hanno partecipato a manifestazioni fatte da italiani eccetera, è stato capita questa cosa, quindi non ci sono state discorsi di rivalsa, no. Perché hanno capito che era naturale che così fosse. Certo. Senza contare l'italianizzazione forzata della lingua, che quella è stata pesantissima per i tedeschi. Esatto. Io ho avuto la fortuna anni fa di, per mettere un piccolo commento a queste verità, ovviamente, ho avuto la fortuna di vedere dei registri di alcune maestre in Val d'Ultimo, maestre italiane, portate esattamente dalle regioni più diverse, portate su a colonizzare questa terra. E dai registri si rilevavano, ed era non l'ho fatto io, era un lavoro che avevano fatto alcuni maestri di seconda lingua di quella valle, avevano trovato questi registri e li avevano poi messi insieme, ha fatto un piccolo libretto, credo, era uscito qualcosa, ha pubblicato qualcosa. E, Quello che si notava erano due atteggiamenti completamente diversi e assolutamente compresenti. Da una parte le maestre investite della missione di italianizzazione del territorio, per cui arrivavano su con questa enorme consapevolezza di essere coloro che avevano un compito preciso da svolgere, era come se fosse una camicia nera costantemente, no? E che quindi il loro atteggiamento nei confronti della popolazione era esattamente quello: rozzi, ignoranti, che non imparano, che non pagano la tessera, che non vengono le donate fasciste, che le famiglie che non iscrivono i figli al balilla, guarda dove siamo capitati, cosa ci tocca di vedere, e via di seguito. Dall'altra parte, un'altra serie di maestre, e i numeri non erano sproporzionati rispetto al primo esempio, ce n'erano un buon numero anche delle altre, che si rendevano esattamente conto di dove fossero arrivate, di qual era la realtà di questo posto e di quanto arrivare qui con questo peso sulla testa di un regime che ti porta fosse vissuto dalla popolazione in maniera assolutamente diffidenza, è un termine veramente piccolo, no? Di ostilità, è ovvio, insomma, è comprensibilissimo. E si prodigavano perché questo sentimento si sgretolasse in qualche maniera, facevano di tutto loro per andare incontro, imparavano il tedesco, mentre le altre maestre assolutamente no. Cercavano di imparare qualche parola in tedesco per riuscire a parlare con queste persone, per riuscire a andare a casa di queste persone. Una cosa che ho trovato anche qui, nella documentazione, ci sono dei comportamenti, delle abitudini anche alimentari italiane che le popolazioni di lingua tedesca non aveva, fino a un certo punto, i funghi per esempio. Mangiare i funghi è un piatto italiano, cioè quando vedevano i turisti italiani oppure gli italiani stessi che raccoglievano i funghi, i tedeschi li guardavano proprio per dire: ma cosa mangi, cosa stai, cioè, come ti sei ridotto, cosa ti sei ridotto a mangiare, o anche altre cose. Che poi in realtà invece sono alcune, andavano per esempio le persone italiane all'asta, andavano a comprare le galline perché i contadini non mangiavano le galline e le usavano solamente per le uova. Oggi le mangiano tutti le galline, cioè voglio dire, è un piatto che trovi dappertutto, le abitudini alimentari in qualche maniera qualche volta raccontano dei cambiamenti o degli incontri o degli scontri che si possono realizzare in termini dei momenti di migrazione. E lo strascico del ventennio fascista, lo sappiamo, per questa terra è qualche volta in peso, e qualche volta, insomma, spesso lo è. E lo è stato, io il periodo in cui una parte del libro racconta anche di quel periodo, e lo racconta dal punto di vista di chi lo vede anche in maniera molto inconsapevole. La gran parte di quelle persone che sono venute qui a lavorare alla cava di marmo non aveva la consapevolezza di essere rappresentante di uno Stato. Aveva un bisogno, questo bisogno si realizzava qui, il lavoro era qui, vado lì. Si stupiva di essere in un posto che dicevano essere italiano, e gli avevano garantito di essere italiano, in realtà non lo era, ma senza nessuna accusa a qualcuno perché l'immagine che uno si era fatto prima di venire non corrispondeva alla realtà. C'era più che altro stupore, più che altro meraviglia rispetto a un mondo che era assolutamente diverso da quello che si potevano immaginare e che era un mondo impermeabile, difficilmente permeabile, perché aveva questa serie di retaggi anche dietro. Una delle cose che il regime fascista fa rispetto a, che io cito nei racconti, è quello della, quando c'è gli anni 30, l'autarchia e tutto il resto, stabilisce calmiera i prezzi, che può sembrare una politica economica interessante. Cioè il pane costa tot, più di questo non lo puoi fare, non lo puoi vendere. Il vino costa tot e tutto il resto, e i prodotti erano, i prezzi erano assolutamente calmerati. E dovevi garantire anche, i negozi dovevano garantire una serie di prodotti perché facevano parte del paniere indispensabile per la sopravvivenza. E in realtà magari questo non era sempre possibile, perché non sempre arrivava il pane, perché non sempre si riusciva a fare, perché non sempre c'era la carne, perché non sempre c'erano altre cose. Oppure c'era, scusate, l'altra premessa è che i commercianti erano tutti ovviamente tutti rovesi del posto, quindi si sentivano investiti da queste regole che potevano sembrare anche di politica economica ragionevole, ma che venivano comunque da una voce che intanto gli aveva fatto cambiare il nome, che intanto gli aveva proibito di parlare tedesco, che intanto gli aveva tolto le scuole, che intanto gli aveva fatto una serie di sgarbi usando un eufemismo, per i quali anche questo veniva vissuto così, per cui vengono chiusi alcuni negozi perché questi negozi invece non rispettano queste regole e il prefetto o chi per lui, il questore, controlla, va, gira per i magazzini e scopre che in realtà i prezzi sono diversi, che non sono quelli stabiliti, e fa chiudere il negozio per un giorno, due giorni, una settimana. Ma quell'atteggiamento lì, che poteva essere comprensibile e condiviso da un commerciante se fosse venuto da qualcun altro, veniva da Roma. Quell'imposizione veniva da Roma e aveva tutto quel peso, e a quell'imposizione bisognava rispondere in maniera antagonista. La banda di Vasa si rifiuta di suonare Giovinezza per la terza volta. Le prime due volte ancora, ma la terza no. E viene sciolta. Viene sciolta la banda di Vasa. O i calzettoni bianchi, per esempio, lo sapete, era una cosa che non si poteva usare. Scusi, vorrei chiedere una cosa. Prima dell'arrivo di queste 400-500 persone, dello spostamento delle mie, che cosa se ne facevano del marmo? Come veniva utilizzato questo materiale prezioso? Se ne capiva, diciamo, la preziosità e se ne faceva un uso adeguato? In che aree veniva smerciato? Vorrei sapere questo. Era il mercato di riferimento era quello tedesco, germanico fondamentalmente. Infatti, poi vi dicevo, quando si gioca la fortuna negli anni 20 di far esplodere questa fabbrica, nel senso buono del termine, cioè di far diventare una risorsa molto importante, i primi riferimenti finanziari e anche di valutazione della, oggi si chiamerebbero, c'è un termine tecnico che per il quale si valuta la bontà di un'impresa, vengono fatti comunque da studiosi e da ditte germaniche. E quindi il marmo finiva fondamentalmente lì, anche perché questa terra era, fino al 1919, fino alla fine della guerra, fino agli anni 20, era terra dell'impero austro-ungarico, quindi il riferimento era tutta l'area tedesca, austriaca e tutto. A Vienna ci sono monumenti con il marmo di Lasa. Se andate a Lasa, oggi vedete un busto in marmo, ancora oggi c'è, di Franz Josef, dell'imperatore d'Austria. E, per cui il marmo di Lasa era conosciuto, era apprezzato, si sapeva che era un marmo pregiato ed era un'industria estrattiva di buon livello. Si è scommesso sul passare dal buon livello al diventare il centro europeo del marmo, quindi a farlo diventare la capitale del marmo a livello europeo. Una scommessa che appunto non si è vinta per le vicissitudini internazionali, anche oggi parliamo di una crisi mondiale, cose che succedono in America si riverberano qua, o nascono lì e arrivano qua, la stessa cosa è successa negli anni 20, il 29, la crisi del 29, le borse, non solo a Wall Street ma anche a Lasa. Sì, perché la qualità del marmo Lasa è molto superiore anche oggi rispetto ad altri marmi, come il marmo bianco. Sì. Infatti anche qua a Bolzano costa di più il marmo Lasa che andasse a prendere fino nelle Artuane o del genere, perché qua la qualità è un'altra. Quindi non era sbagliata l'idea di sfruttare. No. Infatti i primi studi danno assolutamente ragione a chi fa questa scommessa. Dice no, questo marmo è. Bisogna investirci in questo marmo, assolutamente di altissima qualità, quindi si può sfondare sul mercato. Bisogna dire anche che la mentalità della gente che stava sul posto non era quella di fare il minatore o di scavare perché avevano il loro vivere di agricoltori, di allevatori di bestiame, eccetera, e quindi erano attirati da questo tipo di cose. Questa è un'altra verità. Anche se poi scoprono. Nei momenti in cui ci sono anche situazioni di crisi dal punto di vista economico per l'agricoltura in sé, non so, carestie, contadino che perde il bestiame, cose di questo genere, diventa anche per loro una risorsa, diventa anche per loro uno sblocco occupazionale. I tedeschi non ce n'erano e poi piano piano ho cominciato a entrare tutti i tedeschi, anche le mie, Montecatini, tutte le fabbriche lì, all'inizio erano proprio. La popolazione tedesca erano ignorate completamente, dopo hanno capito che erano risorse anche prima. Sì, infatti. E anche alcuni lavori piuttosto che altri, quello degli scalpellini per esempio, proprio per la tradizione della presenza della cava da almeno 200 anni, c'erano già una scuola scalpellini come c'è ancora oggi, anche questa sicuramente rinomata, c'erano già allora e questi scalpellini erano dell'oro, del porto. Erano un po' non solo per il fatto che si arriva a essere uno scalpellini anche che venivano da Massa e da Carrara, erano un po' i privilegiati della cava, erano specializzati, per esempio non andavano ad Orario, ma andavano a Cottimo, ma nel senso un po' più alto del termine, non so trovare un suono economista, a prodotto finito, esatto, arrivavano in giacca e cravatta, avevano una mensa solo per loro, dove sì, gli altri immaginavano che avrebbero mangiato meglio. Prego? Erano degli artisti. Avevano sì, ovviamente, questa fama di artista. La copertina del libro è una bellissima immagine che dà, secondo me, l'idea proprio dell'epopea, nel senso camicia bianca, cappello sulla testa e a scalpellare un blocco di mano. Questi non sono in realtà gli scalpellini, perché questi sono quelli che sgrezzano il blocco ancora, no? Però quella camicia bianca mi dà l'idea di un lavoro nobile. Non so come dire, oggi per noi chi riceve il bianco è un medico, il fatto di lavorare in camicia bianca è un bancario, non un banchiere ma un bancario, ha un aspetto, già lo qualifica a livello di... Loro lavoravano in camicia bianca. Per quanto tempo darà marmo questa canna? Non lo so, ce ne sono più di una di cave, sì. Quella principale è acqua bianca. Poi per esempio anche lì c'è un po' di contenziosi, perché c'è Coverano, che è un paese tra Silandro e Lasa, che ha una sua cava, stava cercando di comprare quella di Lasa perché ha avuto maggiori fortune, quindi avevano più finanziamenti, più soldi. Quelli di Lasa hanno resistito e quindi c'è anche un po' di antagonismo tra le due ditte ancora oggi, però c'è, non dico che sopravvive, vive bene, per un settore che era specifico ovviamente. Non si può dire che Lasa vive di marmo, questo no, però c'è una fetta importante di ricchezza che viene da lì. L'ospedale di Merano. Campagna di Merano è la città di Marmo. Davanti. Ne ha centinaia, sì. Perché il tipo di marmo lì si usa per fare delle cose abbastanza particolari, non si usa per fare delle costruzioni intere, cioè blocchi che fanno la costruzione. No, infatti se guardate il deposito non ci sono blocchi di dimensioni eccessive, certo. Sono tutte poi lavorate così, a lastre. O le mandano a lavorare per chi già deve fare il fatto finito. Esatto. Ecco, quelli vanno nel ramo artistico, il blocco va nel ramo artistico. Il ramo invece dell'edilizia, di pregio e tutto, le lastre sono quello che va come prodotto fondamentalmente. Fai vedere il filmato? Andare avanti perché non avevo il sonoro, ma la tecnologia non aiuta. Ecco, le dimensioni dei blocchi sono queste fondamentalmente, non sono grandissime. E quindi sono alte, il massimo è come questo tavolo. Non ce n'è di più nei depositi, i più grandi insomma. Sono molto belle le cave dentro, perché sono tutte, non sono a cielo aperto, ma sono dentro la montagna, e quindi si entra in un ambiente molto molto particolare, tutto artificialmente illuminato. Sono anche lì delle fotografie degli anni 30, delle prime lavorazioni con i nuovi sistemi, in cui si vede una caverna enorme con dentro dei lumini piccolissimi così, che sembrano arrampicarsi sulla montagna con delle scale di legno, che si arrampicano sui blocchi, che vanno a far esplodere, che vanno a tagliare, che vanno a fare tutto quello che serve per estrarre il marmo. Era veramente un'avventura e anche grossi rischi. Ecco, questa è Santa Barbara, che è la protettrice di tutti quelli che lavorano in miniera, ma anche nelle cave, ma anche nei tunnel. E si festeggia all'inizio di dicembre, 4 dicembre. Ed era un'occasione di grande festa, nel senso si bloccava il lavoro, si fermava tutto. Operai, dirigenti, scalpellini, chiunque, qualsiasi tipo di ruolo avesse, tutti insieme a festeggiare dopo la messa. Ecco, quello che vedete sulla sinistra è il piano inclinato, questa rampa di questa cremagliera che sale fino al livello della cava e che è abbastanza, ecco, questa è la ferrovia che poi sale al piano inclinato e che da questa parte porta al deposito. E questa è degli anni 20, tutto questo tipo di impianti è stato realizzato alla fine degli anni 20. misura sulla neve. Era stata adottata questa soluzione, che è abbastanza complicata, perché si trattava, come viaggio per il marmo, di essere estratto su un versante nella valle di Lasa, fatto uscire, trasportato con una carrucola, con una fune, poi si vede, ecco, questo è sempre il piano finato, trasportato sul versante opposto della valle, caricato su vagoni, portato fino all'inizio del piano inclinato in superficie lassù in alto, da lì trasportato sul pianale, fatto scendere, ricaricato di nuovo su un altro trenino che portava i blocchi all'interno del deposito. Quindi è abbastanza complicato. E leggendo di soluzioni ce n'erano di diverse, anche più semplici di queste. Questa in realtà è stata adottata perché garantiva alcune soluzioni in più, che era quella di poter portare su anche gli operai viaggiavano con il marmo, venivano portati su direttamente così, consentiva di non utilizzare veicoli a motore e quindi di non creare una strada che dalla cava scendesse fino al paese. Oggi invece si fa così, oggi ci sono i camion che vanno su, per noi i blocchi che portano giù. Ma oggi non funziona più così? Oggi no, che io sappia no, viene utilizzato tutto su strada. Credo che anche utilizzare oggi sarebbe abbastanza rischioso. Sarebbe anche più costoso, sì. Ecco, un'altra delle cose che per esempio hanno poi portato all'elettrificazione della valle è che questo tipo di impianti consumavano un sacco di energia, avevano bisogno di un sacco di kilowattori per funzionare, era tutto elettrico. Questo era un diesel, era una locomotiva diesel, e quello, il marchio che vedete è esattamente proprio il marchio della Lasa Marmo, quello degli anni 20. Questa è la cava sul versante opposto da dove l'ho fotografato. Sì, a picco nella montagna. Questa è la valle che entra, fino in fondo. Mi dice mia moglie che quando ci andava, quando era ragazzina lei, che era tutta neve, tutto ghiacciaio. Oggi si è prosciugata. Sua moglie è originaria di... E allora la tenda rossa sarà la tenda di Amundsen. Io ho pensato anche quello. Non nessuno è riuscito a dirmi perché la chiamassero così. Perché in realtà è il porto di snodo da cui con la gru arrivavano, venivano messi sul trenino e stop. Questa è la tenda rossa, ecco. Forse perché le travi erano rosse, assomigliavano a tenda, non lo so. Prima polare, no? Può essere, sì. Questa è la cosa, il canale che portava. Queste sono quella è la scia dei residui del marmo che viene buttata fuori, questa lingua bianca che scende. Questa era un'edicata del... non mi ricordo che anno era, 2009, un'edicata bella forte. Questa invece è la centrale elettrica, col bacino, e qui c'è la condotta interna che prende l'acqua dalla Val Martello, dalla diga di Giovaretto. È una condotta di 7 km scavata tutta a mano, con le persone che entravano nella montagna a scavarla, con martelli pneumatici e tutto, e con un lavoro che facevano, questo sì, solamente i ragazzi, i figli dei contadini, li dotavano di uno zaino e li infilavano dentro la condotta, dopo che era stata scavata e cementificata, e andavano a raccogliere tutti i residui, sassi, sassolini, le sporcizie che il lavoro aveva lasciato, e si facevano 7 km all'interno del tunnel, in salita, poi 7 a scendere, e ovviamente al buio. Ogni tanto c'erano quelle che i tecnici chiamavano le finestre, che erano dei buchi nella condotta, che oggi, che poi ovviamente una volta finiti i lavori, sono stati chiusi anche quelli dall'esterno, ed erano le finestre che consentivano di scaricare durante i lavori i residui, ovviamente. Ma era un lavoro preziosissimo questo di questi ragazzi che andavano dentro questo tunnel, ed era pagato anche abbastanza bene. Perché provate a immaginare anche un sassolino così, sparato dall'acqua dentro la condotta che scende e che quindi provoca, ha una velocità e accelerazione veramente importante, e quel sassolino finisce nella turbina. Ovviamente i danni sarebbero enormi. Allora, per evitare tutto questo, la cura e la pulizia delle condotte prima di farci passare l'acqua era assolutamente necessaria e importante. Ed era fatta anche questa mano. C'erano questi ragazzi che si facevano andati e ritorno dentro il tunnel, piegati e avanti e dietro a raccogliere sassolini con una lampada, con una lanterna per riuscire a vedere meglio. Ecco. Grazie.